stai. Io vado bene, magari o perché forse mi conviene, ma è sempre meglio che dirti lo sai. Mi sento perso e tu dimmi un po', ti vedo più sicura, soprattutto con te stessa. Con te stessa sei sempre stata troppo dura, ma per un attimo va via quell'idea di ribellione, lascia il posto alla ragione. Ed io con un po' d'esitazione, come un'onda verso terra, io mi lascio navigare. Ci vuoi tornare con me? Lo sai, davanti a te sempre cercato di apparire più forte nella parte del vincente, per poi scoprire che ti perdo sempre. Ma tu non mi ascolti, mi guardi, mi sorridi e poi ti volti, ti muovi indisturbata nella stanza, cercando l'indizio forse di una nuova presenza. Ma per un attimo va via quell'idea di ribellione, lascia il posto alla ragione. Lascia il posto.